pronta e preparata attrezzatura che stanotte ci amo. Abba, abba. Te facciamo gli strittini qua, facciamo le discese. La messa. Neve a bassa quota. 4 gradi già. Si vede fine, sta arrivando sciolta. Ma capo, dove sei arrivato? 1-3-1, là. Freddo. Porca miseria. Che faccio un po' almeno. Buonanotte. Notte fa cagate. Stanotte mi sa che ci lascia in ogni strada, Un problema. Peso già 4 gradi, mi ho boccato a 131, ho scattato 4 gradi. Adesso usciamo, proprio mi vedi? Se hai detto la verità mi dovresti incrociare. Ma che io, ma ti devo dire? E lui, tu, c'è una macchina camminando da sola, peggio di quella che c'ho io, come la dici? Il grattacielo sta parlando, ragazzi, Ti hanno dato la macchina a 2 piani per metterci sopra, ragazzi. Ah no, io mi metto direttamente in cuccetta, questa qui va da sola. Per ora sentiti a vedere, piano, ma com'è? Non te lo auguro, questo è il rientro sempre a te, capito, per vedere a me. Se mi vuoi vedere, paghi il caffè e mi vedi. Grazie, guarda, ero da loro scaricando, ma non ti dico altro. E ne ho ancora la roba dentro, penso che l'altro va adesso. Com'è la campera? Tranquillo, guarda, sto buttando appena lì la discesa di Florinas, è un pochettino attesi, l'altro tutto quanto tranquillo. Ma cagate, stanotte ce lo dobbiamo aspettare. Che riprendila, zuffalo per i capelli, vabbè, non ne ha più. Ma stai ero nella bucca. Ma dove guarda, ha fatto un po' di casino lì e un po' a comere. Campera è pulito proprio. E ma stavo dicendo, più tardi gliene fa, Viene qua più tardi, vedrai. Oh, la campera mi dava meno 4. Positivo, no, gliela la fa la cagata stanotte, vedrai. Vabbè, tanto tu devi fare Olbia, vada, oggi devi scendere. No, Olbia, 2 Olbia devo fare, se me lo lascia fare stanotte. Ma perché qua non sta facendo? Se butta la notte per cogliere di più, però penso che sia tranquillo. Capito? Poi per un attimo te la saluto. Ciao, buon proseguo, a domani se fa. Perché? Siamo tu. È tardo. È tardo. Sta uscendo adesso, caspettina. Pazienza, da andiamo a problema con lui, ma non mi dica, buca è entrato. Deve essere. E oggi combinato? Oggi? Combinato? Travagliato. Oh, benito, sentito lei? No, non l'ho sentito. Ma quando ho messo tutto quanto a posto, cazzo, non l'ho sentito. No? Non ho avuto modo di sentirlo perché sto facendo cose a casa e qui si è tragito. Ma forse è uscito domenico. Sei uscito alle 2. ciao, grazie, ci sentiamo, buon proseguo. Ehi, ah, c'è nessuno, Falke? No, per il momento nada, nessuno. Stiamo mangiando a questo, solo signore. Ehi, ah. La signora, di là. Dove? Ho detto, la signora di là è. Ehi, ah. Ma Maria mi fiocca da... Ah, la roia. Vado, sì. E non ti sta più a capo. Pensiamo qua dove cosa ci vogliamo fare. Ecco, portatevi se rubino. Però ci vuole, dove? Ci vuole, ci vuole. Eia, dove? Se tu gira più dopo, dai, non ci sono problemi. Ciao, fate la buona, dove? Ciao, ciao, ciao, dove?